sotto braccia camicetta a fior blu. O fa signorinella, non si scolo pur tu. Tu piglia sigarette quando accatto per papà. Tu mietti già un russetto come vire fa mamma. Lazzarella, ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più. E venga a posto per tutti vicino a scuola o Gesù. Tu invece mi rispondi già, io devo rette proprio a te. Per me l'amore va sputtare, che non già fa, non fa per me. A Lazzarella, vantate primavera, quando passo tutta in mattina, già ti spicchi in te vetrina, solo un complimento ti fa vampare. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensa proprio a me, e ride per me fa capire che perdo tempo appresso a te. Mo bene uno studente, non sa scuola do Gesù, che va sempre più stretta, la camicetta a fiore blu. Te piglia quattro schiaffe tutte botte che papà te trova un biglietto che ti scrive chi lo là. Lazzarella, ma Lazzarella come sì, ci sei caduto pure tu. L'amore non ti fa magna, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma. Ma se non passa d'ora, fai segni sì senza parlare. Ah, Lazzarella, o tempo come vola, mo ti trovo tutta in mattina, chi ne lacrime sto cuscino, manca una compagnella ti può aiutare. Ma Lazzarella come sì, e ti prepara di sti